Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Otto e 33 minuti di domenica mattina. Buongiorno a tutti cari ascoltatori da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini e buona domenica. Mi volto e vedo il diluvio. Oggi il diluvio. Ieri un sole pazzesco. Va bene, insomma, è una buona notizia che il diluvio sia stato oggi, visto che ieri c'era il Pride. Se il meteo dipende da Dio, visto anche solamente prossimità con il cielo, direi che non ce l'ha con gli omosessuali. Vi è vicino. Esatto. È vicino a tutti noi, perché questa pioggia è benedetta. È benedetta, ci voleva. Ci sono tante zone d'Italia dove c'è poca acqua. Carenza d'acqua, pochissimo. L'abbiamo parlato ieri anche. Esatto, soprattutto anche qui nella zona del nord dell'Emilia, a confine con la Lombardia. Quindi benvenuta pioggia. Fa bene anche solo parlarne, certo. Giusto? Come 24.00.24, cari ascoltatori, vi aspettiamo per stare con noi fino alle 10. Per giocare con noi cerchiamo un personaggio della settimana e anche oggi mettiamo in palio un libro per il primo che indovina, e allora andiamo a dare l'indizio. Cominciamo subito con un bel personaggio. Bel personaggio e come sempre i nostri personaggi, perché sennò ci stai dando già un aiutino. È vero. Allora, il nostro personaggio, notizia degli ultimi 7 giorni, è brillante. Quindi cominciate a pensare, aguzzare l'ingegno, esatto. Dici di solito. E a digitare il numero verde 800 24 00 24. Cominciamo notizie e poi parleremo di Milano. Parleremo con Eri Marco Re nella seconda parte, un bell'ospite e tante belle cose. Vai, iniziamo. Stefano Rodotà, anche un amico, e oltre a essere una delle figure più autorevoli del nostro paese, un giurista illuminato, una persona di grande spessore, riconosciuta all'estero, una persona che è sempre stata in grado di cogliere le sfide del diritto e dei diritti. E va bene, questa era Laura Boldrini, presidente della Camera, alle celebrazioni per la scomparsa di Stefano Rodotà, una di quelle persone che sembra che non debbano lasciarti mai, uno di quei punti di riferimento politicamente di parte. Magari non troverà tutti d'accordo sulle sue opinioni, però sicuramente sul un tipo padre di figura nobile. Al di sopra delle parti, onestà intellettuale, comunque capacità di dire cose che vengono ascoltate, prese sul serio, è quello che si dice spesso ci manca oggi, no? Non so se sia così, però sicuramente una certa autorevolezza, sicuramente una certa fiducia che si aveva anche nei confronti di Rodotà, sì. Non ce l'abbiamo in molte persone, quindi ci manca e ci mancherà sempre di più. Città Roma e Milano a confronto, perché questa settimana è la settimana dove è stato fatto il bilancio del primo anno di giunta Raggi a Roma, e invece a Milano è arrivata la notizia di un nuovo ipotesi di reato che riguarda il sindaco Beppe Sala, quando era amministratore delegato dell'Expo, indagato anche per turbativa d'asta. Cominciamo con la Raggi. Abbiamo in campo moltissimi progetti, stiamo piano piano cambiando tutto il sistema, già abbiamo riavviato i bandi per moltissime cose, le strade già si iniziano a vedere, abbiamo i bandi sul verde, insomma stiamo riavviando tutto quanto, direi di sì, c'è ancora tanto da fare, la strada è sicuramente in salita, però ci siamo, ce la mettiamo tutti. Che voto si darebbe? Direi un 7,5. Va bene. Tutto quello che io dovevo dire l'ho detto nel comunicato. Da ora in poi non ho altri commenti sulla cosa. Tutto quello che dovevo dire l'ho detto nel però comunicato. Però sospensioni non sono in vista. No. Neanche se dovesse essere rinviato a giudizio. Lavoro, vado a lavorare adesso. Amo Milano perché quando il sole sorge nessuno se ne accorge. Amo Milano perché non si nota. Per l'Europa Italia, per l'Italia Europa. Amo Milano perché è un giardino degli Emirati e siamo tutti immigrati. Amo Milano perché ci trovi tutti i colori, gli esseri umani, i lavori. Che sia bianco, che sia blu, che sia verde, che sia nero, basta che sia di dentro. Amo Milano perché è la capitale morale del commercio immorale. Amo Milano perché ti consegna tutto a domicilio, il cibo, le donne, un figlio. Amo Milano perché mi deprime ad un livello costante come un mutuo per le mie rive. Portami dove non passa nessuno e baciami. Allora, Milano è la città italiana sicuramente dove si sta spingendo di più, sperimentando di più la questione dei mezzi di trasporto nuovi, alternativi in qualche modo, no? Quelli in sharing, quelli giusto, sharing, bike sharing, ma non solo, car esatto. Sharing, poi ci sono le nuove metropolitane, si stanno muovendo un sacco di cose. Ci sono delle notizie, noi vogliamo fare il punto con l'assessore alla mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Fra l'altro sono stati da poco diffusi i dati proprio dell'utilizzo del bike sharing, del car sharing, quindi possiamo fare un punto su quanto i milanesi si stanno abituando, come dicono tutti che bisognerebbe fare sempre di più, a lasciare l'auto a casa, no? O anche quasi a non averla proprio, o direi. Anche quasi a non averla proprio. Non ce ne vogliono i produttori, distributori, venditori di automobili, però insomma, di automobili in giro ce ne sono già parecchi. Ma poi, è semplicemente che cambia l'acquirente, esatto. Perché le compra Enjoy. Esatto, Enjoy, Trenitalia, chi è? Assessore, però visto che abbiamo appena sentito, abbiamo dato notizie della settimana, Roma-Milano, problemi diversi a confronto. Nuova ipotesi per il sindaco Beppe Sala, quando era amministratore delegato dell'Expo, un commento da parte sua, assessore della giunta, lui ha detto vado avanti tranquillamente. Sicuramente queste questioni sono da vedere con grande attenzione, ma adesso vediamo le notizie ufficiali, la magistratura sta facendo le sue verifiche, poi bisogna guardare quando la magistratura dirà il risultato di queste verifiche, ecco. Quindi per ora si lavora, si va avanti. Chiusura delle indagini, quindi diciamo che bisogna vedere poi se arriverà rinvio a giudizio e quindi di fronte a cose più concrete si commenta. Certo che ci sono, il Corriere ha calcolato 12 ipotesi di reato, credo, intorno all'Expo, cose grandi e cose piccole, perché va detto che la turbativa d'asta che riguarda Sala è un'ipotesi sullo scorporo dell'appalto dei 6.000 alberi, relativamente invece all'appalto principale, la piastra, non sarebbero state rispettate tutte le regole, eccetera, eccetera. Certo però che sembra quasi, assessore, che in Italia non si riesca a fare un grande evento senza poi dover poi dopo aprirsi mille ipotesi di inchiesta. Ma sicuramente per Expo noi abbiamo fatto prima tantissimi controlli sulle infiltrazioni, sono state quasi un centinaio le imprese bloccate per rischio di infiltrazioni, e questa è la cosa più che ci preoccupava di più, dove è stato fatto un sistema che ha permesso di evitare questo devo dire è stata una grande attenzione che ha tenuto lontano da Expo queste situazioni. Cosa diversa, certo, ci sono le regole per gli appalti, le regole sono molto complesse, qualche volta qualche regola può creare problemi con le necessità di arrivare al risultato, le regole vanno comunque rispettate, ora la magistratura sta verificando, le analisi non vogliono dire che c'è una situazione di irregolarità. Vedremo il giudizio definitivo, e dove c'è grande attenzione, questo penso che sia una tutela di tutti i cittadini. Oh, ma veniamo alla notizia appunto di questi giorni, tra l'altro debutta... Anche perché, se posso dire una stupidata, se la Raggi si dà 7,5 da sola, direi che è difficile per un sindaco essere bocciato in questo paese, se lei c'ha 7,5. Dici tutti sono sopra 7. Beh, insomma... Ma dunque io penso che il voto che vale è quello dei cittadini alla fine, quindi l'autovoto, esatto, o perlomeno una giuria esterna, ecco. Ecco, sì, diciamo così. No, ecco. Ma perché siccome sono tempi di maturità, ho sentito in giro spesso i ragazzi che dicevano: vabbè, ma se la Raggi è già 7:30 siamo promossi tutti, ma ci mancherebbe altro. Ecco. Allora, però veniamo alla notizia da cui siamo partiti. È una, non si può fare per noi, anche perché avete appena state per lanciare a Milano un nuovo servizio di bike sharing, le biciclette in condivisione, non più necessariamente da portare al parcheggio, da prendere da portare al parcheggio, ma da lasciare liberamente appoggiate ovunque, chiuse naturalmente con i sistemi previsti da chi offrirà questo servizio in tutta la città. Che come sarebbe un cambio totale, perché vuol dire non dover più andare in una di quelle, se non sbaglio, 280-230 stazioni, esatto. E per cui se ce l'hai sotto casa sei molto contento, se ce l'hai un pochino più lontana sei meno contento, invece se finalmente puoi metterla dove vuoi è un cambio totale. Come stanno facendo in Cina e a Berlino, cioè Milano che sperimenta veramente tutto quello che c'è di nuovo nel campo della nuova mobilità. Quando partirà questo servizio, assessore? Ma adesso dobbiamo vedere le proposte che ci arrivano, perché chiaramente anche qui le cose erano fatte nelle regole, quindi noi abbiamo fatto un avviso pubblico che prevede però delle scadenze periodiche. Ogni mese c'è la possibilità per operatori che hanno questo servizio di proporsi, e quindi noi avremo con il 5 di luglio la prima verifica, e poi con le imprese ci sarà se ci saranno già delle imprese disponibili, poi ci sarà il tempo per distribuire le bici, quindi penso che bisognerà arrivare passare sicuramente il mese di agosto. Come sì, prego. Sì, questa è la necessità che noi abbiamo visto. Noi abbiamo avuto il tema di tutti i quartieri che oggi ci chiedono le stazioni, perché il servizio che oggi è distribuito su un terzo della città ha raggiunto 60.000 abbonati, la gente lo utilizza e tutti i quartieri ci chiedono questo, perché questo servizio aiuta a lasciare l'auto a casa. Ecco, come funziona oggi la bicicletta condivisa? Facciamo un piccolo passo indietro. C'è un abbonamento che si fa, poi si prende la bici e la si può utilizzare gratis in uno di questi stalli, la si può ritirare. C'è un abbonamento annuale che è di 35 euro, poi con particolari sconti scende fino a quasi 20 euro in alcune occasioni, e uno con la propria tesserina la posiziona allo stallo, ritira la bici, la utilizza e poi la riposiziona però in un'altra stazione. Le stazioni sono molto diffuse, sono a rete, le biciclette sono 4.650 nella parte diciamo più centrale della città. Certamente oggi il problema è quello di poterlo portare anche nei quartieri del resto della città, in modo che uno possa accedere a questo servizio sempre, non solo quando è in centro. E pedalare anche fino a Rogoredo, ecco, così per pedalare anche fino a Rogoredo. No, perché era uno dei problemi, se vogliamo, sempre per raccontarlo agli ascoltatori, era uno dei problemi, perché se ci sono state persone che si sono lamentate perché non avevano uno stallo nelle vicinanze, e se hai lo stallo a 3 km ovviamente non ha senso prendere la bicicletta. Ma le volevo chiedere una cosa, perché in realtà Milano, non so se prima di tutti, però io ricordo molti anni fa che aveva inventato questo servizio di una bicicletta pubblica che era per tutta la città e che tu lasciavi dove volevi, e credo che in 3 giorni fossero state rubate tutte queste biciclette, diciamo più o meno. Certo, no, oggi abbiamo... no, perché io me lo ricordo ed era una cosa stupenda, certo. Ai tempi, e poi improvvisamente le biciclette non c'erano più, che ogni tanto si vedono ancora in giro perché sono molto riconoscibili peraltro. Sì. Chiaro, oggi abbiamo la tecnologia che ci aiuta. Ecco, volevo capire cosa era cambiato. Sono georeferenziate, cioè il vantaggio delle situazioni attuali è che queste bici del free floating hanno un sensore, quindi la società che gestisce le georeferenze, come la macchina del car sharing. E quindi nessuno le dovrebbe rubare. Esatto, questo serve sia per l'utente che per sapere dove sono le bici, si collega sull'app, vede attorno a sé dove può trovare la bici. Ma scusi, una domanda stupida, sì. Assessore, come fa la app a distinguere se la bicicletta è appoggiata al muro, disponibile per il prossimo utente, oppure se me la sono portata dentro casa mia e la voglio usare soltanto io? Il gestore poi deve controllare se effettivamente vanno in strada nei posti indicati, eccetera, o se uno se la porta via dalla città. Quindi diciamo, è tutto un controllo che fa il gestore. Tra l'altro, questo sarà un servizio privato, un po' come avviene con il car sharing, a differenza del bike sharing, se abbiamo capito bene. Quindi non sarà un servizio offerto dal comune, ma da aziende private. Quindi diciamo diciamo che viene fatto un accordo. Sì. Beh, c'è un accordo, nel senso che noi diamo a loro delle facilitazioni per l'utilizzo degli spazi comunali. E in cambio otteniamo il rispetto di alcune regole, fra cui una distribuzione in città, la qualità della bici, il coordinamento e il controllo, ecco, cioè abbiamo, si fa un accordo, no, dove c'è uno scambio, e quindi noi chiediamo a queste società alcuni parametri perché il cittadino possa avere un servizio efficiente. E poi metteremo nella città 50 aree della mobilità, che noi chiamiamo così, dove, e soprattutto nei quartieri di periferia, degli spazi pubblici in strada dove uno può trovare la macchina del car sharing, la bici del bike sharing, la rastrelliera per legare la propria bici, cioè dei punti dove questi sono più raggiungibili, ecco. E non avendo bisogno della rastrelliera, diciamo, dell'impianto, eccetera, per noi è molto più facile, e questo permette in minore tempo di offrire una qualità di un servizio a tutta la città. Assessore, resti in attesa, e anche soprattutto bello concentrato, perché abbiamo la pausa per le informazioni sul traffico. Non sia mai che c'è qualche segnalazione che riguarda Milano. Torniamo tra un attimo, ascoltatori. 800 24 00 24. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Amo Milano che di notte mi emoziona, come un amore grande che non funziona. Bella da tagliarsi le vene in navigli, per non fare sfigurare Venezia e Parigi. Ma tutto vale niente anche se costa caro, e non vedi le stelle per la nebbia, per la fila planetario. Cinema de sé, cinema design. Amo Milano per quei e che lavoro fai? Allora, caro assessore Granelli, sono stati appena diffusi i dati sull'utilizzo del bike sharing e del car sharing a Milano poco tempo fa, perché molti dicono sì, bei servizi, però chissà in quanti li usano, sono pochi, non incide, non serve a cambiare le abitudini dei milanesi, eccetera. Quanti sono invece i milanesi che ogni giorno utilizzano questi servizi, questi nuovi servizi? Sono migliaia, sono tanti, appunto dicevo il bike sharing, sono 60.000 gli abbonati, in un anno raggiungiamo quasi 4 milioni di prelievi, quindi vuol dire che è molto utilizzato questo servizio, e soprattutto è in continua crescita, quindi questo ci rassicura. E anche le auto del car sharing stanno aumentando, ma abbiamo superato la soglia delle 3.000 e sono utilizzatissime. Questo è il messaggio che ci dice che la gente è aperta all'innovazione quando un servizio di qualità lo utilizza, e soprattutto permette di non usare la propria auto. Uno può prendere la metropolitana, arriva a una stazione, prende il bike sharing e da lì raggiunge l'ufficio, raggiunge il negozio, e non ha più bisogno della propria auto. E questo è quello che fa cambiare la mobilità in città, in un'area densamente abitata, permette di avere meno congestione e meno inquinamento, che sono i due obiettivi che le aree cittadine, le aree metropolitane, le urbanizzate hanno bisogno per la qualità della vita, altrimenti abbiamo code, intasamento e inquinamento che rovina la salute nostra. Aggiungo solo una cosa, un dato empirico: si usano tantissimo queste cose, spessissimo gli stalli non hanno le biciclette perché le stanno utilizzando, e io personalmente penso che sia molto bello, perché ti viene veramente voglia di smetterla con la proprietà, perché il fatto di poter andare e usare dei servizi per cui tu non possiedi il mezzo è bellissimo, perché tu puoi andare in macchina e tornare in bicicletta, oppure andare in bicicletta e tornare con la macchina degli amici. Quindi il fatto che non hai lì la tua bici o la tua macchina, per cui se ti allontani in un altro modo poi devi tornare a prenderla, è un cambio totale delle proprie abitudini. La libertà. Senta, assessore, tra l'altro un'altra cosa, che questa sì è solo di Milano, riguarda solo Milano, è il progetto della riapertura dei Navigli, un progetto di cui si parla da molto tempo. Il sindaco Sala ha recentemente detto andiamo avanti, ci sarà un referendum entro l'anno? Conferma? Sì, probabilmente sarà forse all'inizio del 2018. Oggi noi dobbiamo dare al sindaco la restituzione del progetto perché vogliamo fare un referendum non così sull'idea, solo sull'idea, ma permettere al cittadino di votare con diciamo con le informazioni. Quindi stiamo preparando un progetto che prevede la connessione idraulica, cioè il fatto che in tutta, dall'inizio alla fine ci sia questo tubo che fa sposta l'acqua dal naviglio della Martesana che è a nord fino alla Darsena che è a sud, e poi permettere delle aperture che in progressione apriranno tutto i navigli dalla Martesana e tutta quella che viene chiamata fossa interna, e cioè il giro che collega attraverso la cerchia dei navigli con la Darsena. Per chi non è di Milano, che magari sente questi nomi e dice ma di cosa stanno parlando, si tratta di un percorso semicircolare che girerà in mezzo proprio alla città collegando dei navigli aperti che esistono già. Ma, che abbiamo chiuso un bel po' di tempo fa, e in realtà si dice sempre non è una grande città se non ha un fiume non è una grande città. Ecco, ma infatti al di là dell'entusiasmo poi di chi ci vive e pensa come sarà bella Milano con i navigli, il motivo per cui poi si fa un progetto del genere, no? Ce lo vuol ricordare, assessore? I motivi sono diversi, certamente la qualità e l'attrazione di una città. Oggi le città con l'acqua hanno un'attrattiva maggiore, noi abbiamo visto con la Darsena l'aumento dei turisti, l'aumento delle attività commerciali, l'aumento appunto del lavoro. Ma questo vuole anche dire qualità dell'ambiente, perché dove passa questo canale è possibile poi fare gli scambiatori di calore, cioè invece che avere la caldaia a gasolio a metano uno può usare l'acqua di falda per lo scambiatore di calore, quindi per scaldare o per refrigerare, e poi l'acqua una volta utilizzata lo scambiatore di calore viene rimessa in questo canale e servirà invece per l'agricoltura del sud Milano, che è un'agricoltura di qualità che oggi ha sempre più bisogno di acqua di prima falda, che è acqua pulita per l'agricoltura e permette di avere cibo di qualità a chilometro zero. Quindi sono diversi i motivi che ci aiutano, e questo oggi è possibile proprio perché poi diminuisce il traffico privato, perché questa è la connessione tra i due argomenti, cioè se noi diminuiamo l'uso delle auto private abbiamo anche più spazio per poter vivere la città e viverla in condizioni ambientali. E possiamo permetterci di avere in alcune zone invece che delle strade il fiume. Allora io voglio ricordare agli ascoltatori 800 24 00 24, se si può fare di Milano bike sharing, car sharing, bici da utilizzare e anche da abbandonare e riprendere poi liberamente in città. Ha un nome questo servizio, assessore, questo nuovo servizio di bike si sharing? Si chiama bike sharing free floating. Free floating. Non riusciremo mai a usare l'italiano per definire questi servizi, quindi mia nonna è fuori, è tagliata fuori, ma forse anche mia mamma. 800 24 00 24 anche per indovinare un personaggio della settimana che abbiamo detto è brillante, quindi cari ascoltatori rimanete belli concentrati e cercate un personaggio che sia brillante, che è una notizia che riguarda gli ultimi 7 giorni. Fra l'altro questa cosa dei navigli, vogliamo dirlo, è a Milano ha un valore in più, perché per una volta destra e sinistra sono d'accordo, la Lega in regione sostiene questo progetto e quindi è a maggior ragione è bella questa notizia anche per questo, no assessore, si può dire? Ma certamente le istituzioni devono collaborare, dobbiamo... Però non succede mai, è quasi un evento unico questo nel panorama politico italiano, quasi. Sì, dobbiamo insistere, soprattutto dobbiamo creare la capacità di fare cose concrete per i nostri cittadini, quello è quello che stiamo cercando di dimostrare col governo di Milano. Grazie. Grazie assessore. Buona giornata, buona domenica. 800 24 00 24 GR, torniamo tra pochissimo. Musei a cielo aperto, gioielli dell'arte e della natura da vivere, ma anche da preservare. Da Firenze a Venezia, da Roma alle Cinque Terre, ci si interroga. Come conciliare il turismo di massa con il decoro e la sicurezza del territorio e delle opere d'arte? Venezia pensa al numero chiuso, Firenze bagna le strade. E gli altri nel mondo che fanno? Un viaggio tra arte, natura e rispetto, in onda dal 26 al 30 giugno nel GR delle 7. E un reportage dedicato sabato 1 luglio alle 7:15 su Radio 24 e su radio24.it. Si può fare, si può fare, si può fare. fare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, 9-8 minuti, buongiorno di nuovo da Alessio Maurizi. E buongiorno di nuovo da Carlo Gabardini. Cari ascoltatori, vi aspettiamo all'800-24-00-24 se volete commentare il si può fare di Milano da cui siamo partiti. La riapertura dei navigli, le biciclette che si possono abbandonare dove si vuole. Il bike sharing, se c'è anche nelle vostre città, ormai è un servizio che c'è quasi in tutte le città, meno nelle città più grandi. E anche se volete giocare con noi per cercare di indovinare un personaggio della settimana. Che è brillante. Sonaggio brillante, 800 24 00 24, un po' di voci della settimana, vai. Di Trump le devo dire che mi piace molto, come piace a tantissimi uomini e donne, Melania, per la sua bellezza, sì, per il suo stile e anche per il suo fascino. Anche i democratici in America non hanno critiche da rivolgerle. Allora, visto che oggi si vota, quindi bisogna stare attenti anche alla cosa. Abbiamo sentito la Raggi, abbiamo sentito Sala, adesso sentiamo Berlusconi, quindi abbiamo tutto l'arco costituzionale, volevi dire. Berlusconi comunque che... Berlusconi è tornato a fare le battute. Che cosa le piace di Trump? Di Trump mi piace Melania, è una battuta perfetta. Sì, però poi hai sentito, l'ha argomentata, ha detto, non sa perché, addirittura i democratici non hanno nulla da dire contro Melania, ma perché avrebbero qualcosa da dire contro Melania? Cioè, non si capisce. Credo che stia dicendo, lei non divide, mentre Trump un pochino sì. Un pochino. Allora, sentite qua invece quest'altra voce di Donald Tusk, che è presidente del Consiglio europeo. In settimana, vertice europeo a Bruxelles, si è parlato naturalmente di Brexit, tutte le trattative che vengono fatte per soprattutto i cittadini europei che dovranno andare in Gran Bretagna a vivere lì, lavorare lì, e il contrario, quali nuovi accordi fare. Tusk a un certo punto dice, ma insomma, per come si stanno mettendo le cose, quasi quasi io comincio a pensare che la Brexit potrebbe anche... A sperare, direi, sì, non più che pensare. Più. Cioè, esatto. Si potrebbe tornare indietro. È il primo che lo dice. E cita anche John Lennon, non sbaglio? Imagine. È il primo che lo dice, ma secondo me in tanti lo stanno pensando, perché sembra che l'Inghilterra sia un po' avvitata su se stessa, su questa roba qua. Sentiamo. Hard Brexit, soft Brexit o no deal. Some of my British friends have even asked me whether Brexit could be reversed. I told them that in fact the European Union was built on dreams that seemed impossible to achieve. Who knows? You may say I am a dreamer, but I am not the only one. Thank you. Allora, Donald Tusk potrebbe passare alla storia per essere il primo che dice una cosa che poi magari, chi lo sa, potrebbe anche succedere, che la Brexit non ci sarà. Però ha fatto un discorso bellissimo, perché ha detto tutta l'Unione Europea nasce su un'idea che sembrava impossibile, sì. E quindi io credo all'impossibile, quindi forse anche questo. Quindi un po' l'etichetta dell'impossibilità ce l'ha messa, ma ha detto io spero anche al di là del possibile. Allora, Maurizio da Parma all'800 24 00 24, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno. Su cosa volevi intervenire, Maurizio? Io volevo provare a indovinare il personaggio, che non lo sarà, però mi sembra un'ottima notizia. è un'ottima notizia che non lo sarà? No. sentiamo il personaggio. Allora, nel laboratorio di Frascati, nel laboratorio di fisica dei plasmi, creano delle piccole stelle che sono veramente molto molto brillanti. Mm-hmm. Ed è nell'ambito degli studi sulla fusione, quindi un'alternativa. La famosa energia alternativa che si spera, sì, che arriverà un giorno. Sì, da non confondersi con la fusione fredda, che è una fusione è calda. È che è domenica mattina e già mi sembra tutto molto difficile. Quindi esiste un posto dove creano delle stelle. Sì. A Frascati, laboratorio. La fisica italiana è sempre stata all'avanguardia. Assolutamente. E tra l'altro, per citarne uno, certo, così a caso. È sicuramente un personaggio brillante, questo, in effetti. Non era però Stella... come dalle nostre incertezze, dai nostri balbettini. Esatto, dai nostri balbettini si poteva ben leggere. Non era il personaggio che abbiamo scelto, però siamo felicissimi di aver ricordato questa notizia, sì, che adesso andiamo anche a studiarci. Grazie Maurizio. Grazie. Andiamo con Egle che ci chiama da Trapani. Buongiorno. Sempre bravi. Guardi, secondo me il personaggio misterioso, sì, è una donna ed è Lara, credo che si chiami così, praticamente quella donna che ha sposato un siciliano che si è convertito all'Islam e anche lei si è radicalizzata e ne ha combinate delle belle, quindi brillante, perché ha fatto brillare bombe e tutto il resto, secondo me. Sì, è la storia di questa italiana che è andata in Siria e che viene definita una foreign fighter, però non era lei, no, non era lei il personaggio a cui avevamo pensato, era un altro il tipo di brillantezza. Esatto, abbiamo avuto un attimo di dubbio su far brillare le bombe, anche perché in realtà quelli che fanno brillare le bombe di solito sono gli artificieri, facendo in modo che non creino danni. Comunque no, non era questa la notizia. Cerchiamo ancora un personaggio brillante, 800 24 00 24. Adesso però è il momento di invertire il corso della settimana con le 5 migliori buone notizie della settimana. Si può fare. Allora, cominciamo con la notizia, anche se oggi piove al nord, parliamo di spiagge, di mare. C'è una nuova app che ti permette di sceglierti l'ombrellone che vuoi, nel posto dove vuoi, da casa comodamente, anche di pagare tramite questa app, è nuova, si chiama Coco, e per il momento è disponibile soltanto in alcune spiagge della Toscana, della Liguria, ma anche della Riviera Romagnola, nelle Marche, in Sardegna, in Puglia, sono tante le località, potrei citare i nomi, ma insomma se andate la cercate e scoprite se nella vostra zona di mare si può prenotare l'ombrellone tramite la app Coco. Ci sembrava una bella notizia. E invece al quarto posto una notizia ligure: dopo che per anni centinaia di barattoli di pesto sono stati sequestrati ai controlli di sicurezza dall'aeroporto di Genova, appunto perché siccome non si possono portare più di 100 ml nei voli, se ti beccavano un vasetto da un etto e mezzo ti obbligavano. Esatto, quindi è nato un'iniziativa che si chiama Il Pesto è Buono ed è iniziata il 1 giugno, ovvero la procedura prevede questo: che i passeggeri che vogliono trasportare del pesto possono chiedere un bollino. Esatto, esattamente. Ma è una doppia buona notizia, perché per chiedere questo bollino, il bollino costa 50 centesimi, ma questa e spesso le persone mettono anche più di 50 centesimi e questi soldi vanno in realtà in beneficenza, quindi è tutta una filiera dell'ottimismo. Meraviglioso. Terzo posto, siamo sul podio, una piccola notizia che riguarda il comune di Montelupo Fiorentino, dove forse per la prima volta in Italia o nel mondo ci sono degli incentivi per chi vuol utilizzare gli edifici vuoti del centro per farci dei negozi. Per esempio, ti pagano l'affitto il primo anno fino all'80%, il 50% delle spese il secondo anno, il 30% delle spese il terzo anno, il tutto per favorire soprattutto imprenditoria giovanile, l'innovazione e i prodotti del territorio. Bravi, bravi, bravi a Montelupo Fiorentino. E al secondo posto invece una notizia che riguarda i furbetti del cartellino, o meglio come fare a cercare di liberarsene: i whistleblower, ovvero i soffiatori nel fischietto, i delatori se vogliamo dire, sono dipendenti pubblici che segnalano le condotte illecite dei colleghi. Ecco, queste soffiate si sono moltiplicate di anno in anno e quest'anno sono addirittura raddoppiate. Do solamente due numeri: erano 200 nel 2015, sono state 252 nel 2016 e in questi 5 mesi del 2017 sono già arrivate a 263, quindi si prevede almeno un raddoppio se non di più. C'è voglia di collaborare per la legalità. Qualcuno direbbe c'è voglia di fare i delatori e lì allora si apre la questione su se questa è una buona notizia, però è buona in questo momento di sicuro, perché bisogna risolvere il problema. Poi... il primo posto è sicuramente un'ottima notizia, l'avrete sentito, finalmente sono arrivati i soldi per i disabili siciliani che avevano protestato con tanto di PIF e anche di Jovanotti e di tanti altri che si erano messi a sostegno di questa, come tante altre battaglie che solitamente rimangono nell'ombra. Sono arrivati i primi soldi sui conti correnti di questi disabili siciliani, speriamo che altrettanto si riescano a risolvere anche altre storie di altre persone che magari non hanno avuto la fortuna di avere PIF al loro fianco. Esatto, che gli dava una mano. Anche perché si è veramente sbattuto molto PIF, possiamo dirlo, tra i video, gli urli, gli insulti, alla fine questa lettera che è stata anche pubblicata sulla prima pagina del Corriere, insomma, complimenti a PIF. Viva, queste erano le 5 buone notizie della settimana. Si può fare. Cronache da un paese migliore. pensa alla mia fortuna, un orizzonte che si avvicina. Sotto il mio camion c'è la mia cucina, e intanto aspetto, aspetto, aspetto che il fango liberi le mie ruote, che la pianura calmi la paura, che il giorno liberi la nostra notte. Tutti insieme, tutti insieme. Ma tutti insieme siamo tanti, siamo distanti, siamo fragili macchine che non osano andare più avanti. Siamo vicini ma completamente fermi, siamo i famosi istanti divenuti eterni. E continuare per questi pochi chilometri sempre pieni di ostacoli e baratri da oltrepassare, sapendo già che fra un attimo ci dovremo di nuovo fermare. Da qui passeranno tutti o non passerà nessuno, con le scarpe nelle mani in fila ad uno ad uno. Da qui passeranno tutti fino a quando c'è qualcuno, perché l'ultimo che passa vale come il primo. Nicolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè sono alcuni dei protagonisti dell'iniziativa Risorgi Marche. Suoneranno, canteranno all'aperto, gratis per tutti quelli che ci vogliono andare in degli scenari stranissimi, belli, lunari, all'aperto, nei luoghi colpiti dal terremoto. Ed è un'idea questa qua di Neri Marco Re. Eccolo qua, buona domenica. Buongiorno a voi, grazie. Ciao, buongiorno. Grazie Ciao. Per essere qua con noi. Allora, un'iniziativa che insomma non so quando l'hai pensata, se pensavi che potesse diventare, deflagrare così ed essere una roba così importante. Ma si sperava un po', perché è nata dopo la seconda scossa, quella del 30 ottobre, che è stata poi quella che ha devastato gran parte del centro Italia, perché la prima in effetti ha fatto vittime e danni enormi ad Arquata, Cumuli, Amatrice. E poi però la seconda ha interessato un vastissimo territorio, gran parte del quale proprio si trova nelle Marche. Noi, cioè, questa regione da sola copre il 65% del territorio colpito. Allora, anziché dopo Arquata avevo pensato comunque, ero andato giù a trovare le persone, così chiedere cosa si potesse fare, e magari avevo pensato di fare uno spettacolo per loro, cosa che ho anche fatto. Però poi dopo la seconda ho detto che bisognerebbe fare qualcosa di diverso. Di allora sì, allora anziché fare la prima idea di fare un concerto con tanti artisti, poi ho pensato, ma anziché, tanto loro danno comunque un giorno di disponibilità, anziché concentrarli tutti in un unico giorno, non sarebbe meglio farne tanti di concerti diversi, uno per ogni data loro disponibile? Quindi questi 13 artisti, 13 amici che mi hanno dato la disponibilità, li ringrazio tutti innanzitutto, e oggi iniziano Nicolò Fabi e gli New Quartet, e poi sono tutti e 13, se volete le dico le date, fino al 3 agosto. Aspetta, ti aiutiamo adesso, noi però ti aiutiamo intanto noi, ringraziamo anche noi, perché giustamente tu stavi dicendo, di solito si fa un unico grande concertone, però sì. è anche il fatto che li conosce, che loro sono molto generosi, perché regalano un intero concerto invece che una 8 minuti in una serata. Quindi l'hai descritta molto bene, con molto understatement come sempre, però in realtà grazie a te hai fatto una cosa straordinaria grande. Anche perché poi i concerti sono al pomeriggio. Sì, sono al pomeriggio perché mi interessava ovviamente portare gente nelle Marche, e quindi mi auguro che vengano da tutta Italia in questi 40 giorni che comprendono i 13 concerti, perché le Marche sono tuttora bellissime, nonostante questi danni, questa devastazione, ma la gente ha bisogno, voglia di ripartire, e l'ha già fatto ovviamente. Però c'è anche bisogno di un traino, a volte anche, tra virgolette, di un pretesto, no? E quindi magari tante persone che da fuori non conoscono la situazione potrebbero sfruttare questa possibilità di ascoltare i loro artisti preferiti, e al tempo stesso rendersi conto sia dei danni che ci sono, e però anche del fatto che le Marche continuano a essere ospitali come sono sempre state, che ci sono tante strutture che possono appunto ospitare tutti i vari turisti. Tra l'altro, Neri, se abbiamo capito bene, ad ogni concerto ci saranno presenti anche aziende agricole, artigianali, che potranno in qualche modo far vedere, vendere anche dei prodotti, sì. Quindi dai una mano anche in questo senso. Sì, questa appunto era un'opportunità che si poteva sfruttare per tante cose, tanti vantaggi insieme. Questa era una visibilità, sì, per tante aziende colpite che magari basano la loro economia sul passaggio, no, di turisti nelle varie strade, alcune delle quali sono tuttora chiuse certo. E allora perché non offrire loro, vista l'afflusso, spero, di tantissima gente, la possibilità di vendere i loro prodotti, di farsi conoscere. È ovviamente un giorno, non risolviamo certo una situazione più complessa, però è comunque un momento di ripartenza. Ieri l'ho visto anche in una manifestazione che si chiama Tutti Agibili per un Giorno, ho visto con tantissime persone locali che hanno appunto esposto in questi stand che hanno organizzato, ed erano così felici di poter ripartire, perché c'è questa burocrazia che purtroppo sta legando le mani, i polsi di tanta gente che vorrebbe farsi da fare. Abbiamo letto sui giornali delle grosse difficoltà che ci sono, purtroppo non è la prima volta che succede, ma cerchiamo, speriamo di poterle superare in qualche modo. Sì. C'è un'altra cosa curiosa di come hai pensato Risorgimarche, che se ho capito bene, se ho letto bene, avreste voluto come organizzazione portare le persone il più vicino possibile alle città, proprio come Arquata del Tronto, colpite dal terremoto, ma non si poteva, perché sono cantieri, sono chiusi, e quindi hai detto però invece di farli proprio lontani da un'altra parte li facciamo magari a metà strada, e quindi ne è venuta fuori un'idea originale, perché questi concerti si svolgeranno all'aria aperta, quasi in degli scenari su dei prati, in delle zone, per esempio si comincia oggi alle 16:30 a Spelonga. Sì, vicino al quadro del Tronto. Com'è il tempo? No, è buono, è buono. Perfetto, scusa. Il problema potrebbe essere che potrebbe essere caldo, però in realtà l'idea di farla nei paesi non l'ho mai accarezzata, perché innanzitutto magari ci poteva essere sì questo discorso delle zone rosse, ma siccome i comuni colpiti nelle Marche sono ben 131, ovviamente chi più chi meno, però insomma sono tanti, era difficile poi scegliere. In questo caso siamo arrivati a 13 artisti, va bene, 13 paesi. Allora, è perché non hai 132 amici cantanti? Ce l'avrei anche, però... non del livello di De Gregori, diciamo. Quello forse no, però insomma ovviamente, a parte che l'anno prossimo magari si potrà fare qualcosa di simile, insomma non è detto che chiuda quest'anno Risorgimarche, però proprio i cardini sui quali ho cominciato a immaginare questa cosa erano appunto pomeriggio, perché ci voleva la luce naturale e non quella dei riflettori, sui prati perché non bisognava costruire palchi, perché siamo comunque all'interno della natura e va rispettata, e l'uomo deve riconciliarsi in qualche modo con la natura, e allora farli di pomeriggio significava appunto risparmiare innanzitutto sui tanti costi che comunque ci sono, anche se gli artisti si esibiscono gratuitamente, ma insomma i musicisti, i tecnici, la logistica, l'ospitalità, queste cose sono comunque costose, possiamo contare sugli sponsor per questo, e quindi ecco, farli di pomeriggio significava in qualche modo simbolicamente riavvicinare anche l'uomo alla natura e farlo in modo ecologico. Io spero che poi le persone che verranno appunto saranno ben liete anche di fare i 6 chilometri nel caso di oggi di trekking, che chiedete anche alla gente questo tipo di sforzo, insomma bisogna camminare quasi solo se dei sentieri di trekking, non vogliamo spaventare nessuno, però bisogna anzi secondo me non c'è per niente da spaventarsi. Io lo trovo incredibile, perché come già stai dicendo benissimo Neri, non è il solito concertone, ma è proprio una roba particolare. Chi è che può, quando mai riesce a sentire un concerto alle 4:30 del pomeriggio in mezzo a un prato con l'amplificazione fatta con le batterie senza luci, è una cosa possiamo dire memorabile, al di là proprio di tutto che sarà memorabile, quindi secondo me veramente complimenti. E quasi verrebbe voglia di immaginare che questo tipo di concerti si possano veramente ripetere, fare anche in altre situazioni. Facciamo noi qualche nome, diamo una mano a Neri Marco Re, che sennò di domenica mattina certo. Deve dire tutto lui. Allora si inizia oggi con Niccolò Fabi alle 16:30 a Spelonga. Poi, quindi dalle parti di Arquata del Tronto, poi abbiamo Malika Ayane venerdì 7 luglio a Cingoli, poi abbiamo Diana Lu sabato 8 luglio, il giorno dopo, a Montegallo. Poi avremo Ron domenica 9 luglio a Bolognola, così scopriamo anche dei nomi di paesi che io sinceramente non conoscevamo. Abbiamo anche il nostro Enrico Ruggeri il mercoledì 12 luglio, Paola Turci il 20 luglio, poi abbiamo Bungaro il 23 luglio, andiamo avanti. Il 25 luglio c'è Bersani, il 27 luglio Daniele Silvestri, il 30 luglio Fiorella Mannoia e Luca Barbarossa insieme, e il 31 luglio Bruno Risas. Poi Max il 2 Gazzè. Agosto Max Gazzè, e si chiude il 3 alla agosto grande. Con Francesco De Gregori insieme a New Quartet. Ma che meraviglia! E l'Orchestra Filarmonica Marchigiana. Esatto, quanti questi nomi straordinari, nomi sì, di artisti generosi, bravissimi, che amo personalmente e artisticamente. E poi ci sarai sempre tu anche, giusto? Sì, sì, io faccio il padrone di casa, quindi non li abbandono, nel senso mi fa piacere proprio introdurre questi pomeriggi, questi concerti, dare qualche messaggio alla gente che arriva, non ultimo quello di lasciare tutto pulito come troveranno, quindi di rimettere le cartacce, le tutto in ordine, tutto in ordine. Fai la parte design. Dell'antipatico, insomma, la parte più difficile. No, faccio un po' diciamo che semplicemente, siccome sono gratuiti i concerti, l'unico prezzo da pagare è quel sudore di cui parlavamo prima, certo, i chilometri da fare di trekking, allora mi permetterò di chiedere loro di essere rispettosi, ma magari lo certo farebbero naturalmente. Ma anche Neri, molto anche giusto, di spendere quei pochi soldini che normalmente, pochi o tanti, uno investe nel biglietto del concerto. In questo caso non c'è biglietto, anche se l'evento è straordinario, magari l'avrebbe anche meritato. Si possono spendere quei soldini per comprare alcuni prodotti di quelli delle aziende agricole e artigianali, esatto, che si troveranno lì, quindi il massimo, insomma, della vita. Sì, ci sono anche i nostri, c'è qualche gadget, le magliette, il vino delle aziende, insomma ci sono delle cose che si possono acquistare e in quel modo anche dare una mano così a coprire qualche spesa, però effettivamente tutto si basa sulla gratuità, perché mi piacerebbe che venissero proprio tantissime persone che non bloccate, diciamo, dal discorso del biglietto. Giusto. E anche animate dal fatto che si può passare questa giornata a partire proprio dalla mattina e armandosi di buona lena, di sorrisi e di pazienza, e facendo queste ore di camminate tra andata e ritorno, lasciando le macchine lontane. E io, se mi permettete, vorrei ringraziare tutti i collaboratori, le persone che comunque pian piano si sono aggiunte, che ho coinvolto fin dal primo minuto o che si sono aggiunte in seguito, a partire dal direttore esecutivo Giambattista Tofoni, dalla ufficio stampa di Sire Colapietro, Alberto Mazzoni, che si occuperà appunto di gestire le aziende che venderanno i loro prodotti, a Massimo Stabile, che è un tecnico fonico. Li ringraziamo teologo, tutti anche noi, tutti quanti, insomma, alla grandissima. E tu canterai anche tu? Ma io vorrei esimermi. No, noi invece vogliamo sentirti. Tu farai in modo che ci sia anche Ligabue sul palco, a un certo punto apparirà sotto le tue sembianze. No, ma io faccio volentierissimo un passo indietro, perché stiamo parlando di nomi eccellenti della musica italiana. Ovviamente, vabbè, qua e là ti si vedrà, visto che con Luca e Fiorella abbiamo fatto per esempio un concerto simile ai suoni delle Dolomiti, può darsi che vista, insomma, la situazione si possa anche mettere un piedino dentro, ma non è questo. Ma anche perché ho letto che forse farai un disco tuo, e ho anche letto che prima o poi lo farò, chiedendo agli amici cantautori di scrivere per me. Io non sono un cantautore, ci conosciamo, però io mi candido per scriverti una canzone volentierissimo. Guarda, io se non so se consigliartelo, Neri, non so se consigliartelo. Ma ci conosciamo, per cui vedi, fai tu. Se succederà, ne te lo racconto. Adesso ti sei impegnato, quindi vediamo. Che va bene, succede. Va benissimo. E poi anche il ruolo della regione, che sicuramente passa un momento difficile, perché poi ci sono tante critiche, però appunto molti problemi sono legati alle leggi, alla burocrazia, quindi credo che tanti che vorrebbero anche fare di più a volte non riescono, proprio perché bisogna cambiare alcune leggi che sono effettivamente troppo complicate. Quindi bravo, e cogliamo anche questo appello, che forse è la cosa più importante di tutte, anche se è la cosa più difficile di tutte, la burocrazia. Però la prossima manifestazione la chiamiamo Risorgi Marche da Bollo. Esattamente, perché grazie, è quello il problema. Un grande abbraccio e un bocca al lupo per Risorgi Marche. Trovate grazie. Tutto sul sito, fra l'altro www.risorgimarche.it, dal 25 giugno al 3 agosto. Ci sono tutte le date, tutti gli orari, tutti i posti, tutti i nomi, tutto quello che si può fare per andare lì, si può fare a divertirsi, perché poi questo è a scoprire le Marche, a divertirsi e a dare una mano. Grazie, ciao, in bocca al lupo. Ciao Neri, grazie, grazie mille. Allora, 800 24 00 24, fra poco ascoltatori che sono già in linea, Girolamo, Angela, bla bla bla, li sentiamo dopo la pausa. Sono i tuoi occhi che mi aiutano a ricordare che si può fare, ricominciare, il primo passo poi si vedrà e poi si vedrà. Ci abbiamo Girolamo che chiama dalla provincia di Trento, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io sto chiamando dalla provincia di Taranto, non Trento. Sì, Taranto. Cioè, vabbè, abbiamo solamente tolto qualche lettera, comunque no, è sempre no, Italia. Ho bevuto un paio di spritz prima di andare in onda. In effetti sto chiamando dall'associazione Nord-Sud, quindi Trento, vedi, Taranto, è perfetto, Puglia. Vedi, perfetto. Bravo, complimenti, sì. Ma cosa volevi dirci, Girolamo? Senta, io siccome Vasco Rossi si prepara i concerti in Puglia, proprio oggi nella zona di Castellaneta, Mazzafra, Taranto, in un complesso, credo che Vasco Rossi è la persona che illuminerà con i suoi, non so, 40-50 mila, 200 mila, non so quanto, perché dalla Puglia ne vanno circa 20 mila. Ah, però il suo concertore, sì. E quindi, sta candidando Vasco Rossi a personaggio della settimana. Però, noi siamo felicissimi di aver ricordato Vasco, ma non è il personaggio che avevamo scelto. Aia. Grazie mille però per aver chiamato. Vabbè, comunque complimenti e saluto dall'associazione Nord-Sud che si trova a Trento, la sede nazionale, e in Puglia a Massafra, Va bene, perfetto, momento proloco, era perfetto. Momento proloco di Girolamo, ciao, grazie. Angela da Torino, vai. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Per me il personaggio della settimana è la figlia di Swarovski, che ha sposato con questo abito bellissimo, tempestato di tutti questi... cristalli, ecco. Mi cioè, saranno stati degli Swarovski o era vetro di Murano invece? Come? Che saranno stati degli Swarovski, essendo la figlia di Swarovski. Certo, bellissimo, con un grandissimo strascico che era meraviglioso vedere solo questa foto, insomma. È certamente molto brillante, però non è il personaggio. Sì. Però grazie che così abbiamo ricordato il matrimonio della figlia Swarovski con gli Swarovski. Sì, devo dire, Angela, che è più brillante il suo personaggio, forse del nostro addirittura, perché è più brillante il racconto, direi. Sì, sì. Sì. Però non era lui. Allora, diamo un altro indizio, così aiutiamo gli ascoltatori a indovinare, perché fino ad ora non ci siamo neanche tanto avvicinati. Il personaggio è brillante, ma anche ha una data precisa. Ecco, mettiamola così: 800 24 00 24. Adesso pensate bene a questo indizio. Che succede adesso? Allora, la notizia è questa. Nasce la prima, forse, che noi si sappia, scuola, per semplificare, la scuola per imparare a fare la mozzarella di bufala, ma non solo per imparare a fare, dai, ma anche per imparare a commercializzarla, a venderla. Beh, ma la cosa importante è farla, poi dopo... La cosa importante è farla. Farla bene. E noi abbiamo convocato il direttore del consorzio della mozzarella di bufala DOP, Pier Maria Saccani. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Potrebbe sembrare una battuta, ma stiamo parlando di un settore importante, questo qua, che occupa... Potrebbe sembrare una bufala, volevi dire. Una bufala, un sacco di persone invece. Quante persone lavorano in questo settore? Ma nella filiera lavorano circa 20.000 persone, sono occupate. Per un fatturato di quasi 600 milioni di euro, oltre mezzo miliardo. E questa scuola? Ci spieghi un po'. Ma questa scuola nasce da un'esigenza molto chiara, il prodotto è un prodotto che cresce come commercializzazione di 7-8% ogni anno e non possiamo ovviamente stare fermi e farcelo e portare via da qualcun altro. Sì, a parte quello, no, ma anche per sviluppare, diciamo, e continuare ad aumentare i livelli qualitativi dei prodotti. Noi abbiamo oltre il 34% degli impiegati che hanno meno di 30 anni, dunque una filiera molto giovane che ha bisogno di formazione. Cioè, noi possiamo competere sui mercati internazionali solo con i livelli qualitativi che si ottengono dalla formazione. Ah, quindi stiamo parlando anche di persone che già lavorano nella filiera, non è una scuola solamente, diciamo, per neofiti, ma anche per chi già lavora ma vuole specializzarsi, perfezionarsi e migliorare le tecniche, giusto? Sì, è una scuola che serve sia a chi si vuole avvicinare al comparto, e parliamo di una scuola che si occuperà dalla zootecnia fino alla commercializzazione e al marketing del prodotto, ma anche un aggiornamento professionale per chi è già impiegato nella filiera per stare al passo coi tempi, diciamo. Certo. Ecco, quindi c'è il discorso della produzione, dal latte fino alla produzione vera e propria, il marketing, la commercializzazione, l'esportazione, perché parliamo di un prodotto comunque che è un simbolo quasi del Made in Italy alimentare. Però noi abbiamo anche qualche preoccupazione, Saccani, sulla mozzarella di bufala, perché sappiamo la terra dei fuochi, l'inquinamento, adesso quest'anno c'è anche il problema della siccità, per cui sappiamo che il prodotto è a rischio. Ci può tranquillizzare in qualche modo? Ma sì, diciamo che quelli sono argomenti passati, ormai sono passati tanti anni da quelli che potevano essere comunque degli scandali, ma il prodotto è un prodotto che è tra i più controllati in Italia e dunque in Europa, perché in Italia abbiamo il sistema di controllo e certificazione più avanzato d'Europa. Questo ci è stato riconosciuto più volte anche in ambito comunitario e molti paesi guardano all'Italia con questo, proprio per imparare il sistema dei controlli, e anche i paesi che sono più attenti alle esportazioni e alle certificazioni non hanno mai creato difficoltà, proprio perché la mozzarella, forse anche partendo da qualche difficoltà che c'è stata in passato, ha aumentato e ha creato un sistema di controlli che va dall'allevamento fino al confezionamento del prodotto. Ma io invece le volevo chiedere un'altra cosa, in questa scuola si impara solo la mozzarella di bufala, o già che uno è lì impara anche qualche altro formaggio, la mozzarella non di bufala? Allora, noi stiamo adesso stiamo studiando e lavorando per impostare tutta la pianificazione dei programmi. Siamo in contatto anche con gli altri consorzi di tutela, anche il Taleggio, per ragionare su quelli che possono essere argomenti trasversali, perché poi se si parla anche di azioni di tutela, problemi di export, problemi di etichettatura, sono problemi trasversali. Che hanno tutti, esatto. Quindi è giusto affrontarli tutti insieme. Esatto, questo è un po' lo spirito, noi ci siamo fatti carico di questo, di impostare questa scuola, perché abbiamo le strutture, siamo dentro come sede della Reggia di Caserta da quasi un anno, abbiamo delle strutture che si prestano anche a fare queste attività, per cui abbiamo ritenuto giusto impostare questo lavoro. Giusto. Avete bisogno anche di assaggiatori? Perché io mi candido molto volentieri. Venite, facciamo una trasmissione in diretta, così lo descrivete voi in diretta. Va bene, molto molto idea. Volentieri. Intanto complimenti, perché comunque bisogna fare il salto di qualità, e il salto di qualità lo possiamo fare anche con la formazione di chi lavora in questo importante settore. Grazie, in bocca al lupo al direttore del consorzio. Grazie mille. Saccani, lei è consorzio mozzarella di bufala campana, però lei non è campano, vero? No, sono di Parma. Viene dal parmigiano, insomma, un conflitto di interessi. Esatto, uno straordinario conflitto di interessi. Vabbè, dai, viva l'incontro delle tradizioni. È l'incontro fra il parmigiano reggiano e la mozzarella di bufala. Perfetto, io porto il grana padano. Anche bene. Va bene. Grazie mille, arrivederci, buona domenica. 800240024, cari ascoltatori, vi aspettiamo. C'è la pausa per il traffico, poi tra poco torniamo. Cerchiamo di indovinare un personaggio della settimana che abbiamo detto è brillante. Poi abbiamo dato un secondo indizio che è un bel indizio perché... ha una data precisa. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sulle note di Elisa per introdurre una questa storia qua. Intanto salutiamo Alessandra Repini, ideatrice del portale You Donate. Buongiorno. Ciao Carlo, ciao Alessio, buongiorno a tutti, buona ciao domenica. Ciao Alessandra. Buongiorno. Allora, questo è un periodo di feste, battesimi, cresime, matrimoni, se ne fanno tantissimi a giugno. C'è un'idea originale per fare un regalo, una bella donazione, anziché fare l'ennesimo soprannominino, l'ennesimo regalino inutile, no, perché diciamoci la verità, l'ennesimo giocattolone di plastica se hai un figlio che fa la cresima, che poi ti arriva a casa e non sai dove metterlo. Ti stanno odiando tutti i bambini. Non importa, non importa. Non importa, siete arrivati voi, sei arrivata tu con questo portale. Ci spieghi come funziona, come nasce? Allora, You Donate, come You Reporter, YouTube, youdonate.it. E come dicevi tu, è il portale delle donazioni regalo. Vogliamo diffondere l'abitudine a fare donazioni invece di regali, perché abbiamo visto che si spendono veramente tanti soldi per comprare regali che spesso sono inutili, superflui o magari che non piacciono. L'ho detto io per non fartelo dire a te, per non essere tu l'antipatica, però è la verità, diciamo, è così. Esatto, è soprattutto così. Quei regali un po' formali di circostanza, sì. Perché diciamo che magari un regalo per una comunione di un bambino è una cosa che rimane, un ricordo, sì. Ma pensiamo per esempio alle feste tra adulti. Tra adulti magari già che hanno già raggiunto un bello livello economico di vita. Sì, non sai cosa fare per stupire l'altro, per fargli una cosa gradita. Allora stai lì, pensi, ti spacchi il cervello in 12 parti e non arrivi mai. Quello ha già tutto. E poi di solito scegli dei cioccolatini inutili. Esatto. Allora, ma pensiamo quando se mettiamo insieme i soldi che gli invitati spendono per comprare il cioccolatino, il vassoio, la candela, il soprammobile. Tutti questi soldi, soprattutto per questo tipo di regali, ripeto, perché sono un po' regali di circostanza, se venissero indirizzati verso scopi più utili e più preziosi, certo, sarebbe una bella cosa. E questa è la parte importante della notizia, perché fin qua abbiamo scherzato sui regali inutili, però invece si può fare una cosa molto utile, una cosa generosa, una cosa che dà anche molta soddisfazione. Esatto. Raccontaci il mondo delle possibilità che si hanno tramite il portale You Donate di sostenere, di aiutare. Allora, diciamo questo. Caso tipico è You Donate si rivolge a chi ha in mente di fare una bella festa, una grande festa. Caso tipico appunto è il compleanno dei 40 anni e dei 50 anni, dove si fa una festa che assomiglia quasi a un matrimonio, con un bel ricevimento, con il catering, con tante cose belle. Ecco, You Donate prende proprio spunto dalle liste nozze. Se per il matrimonio si fa una grande festa e si apre una lista nozze, per una festa di compleanno di 40 anni, come vengono, diciamo, organizzati i regali? Si apre una lista donazioni su You Donate. Quindi il festeggiato apre una lista donazioni, nella lista include degli enti di beneficenza che lui sceglie, preselezione, 4, 5, 6, a seconda di quello che lui preferisce. Quindi sceglie il festeggiato, non è che ognuno dona chi vuole, ma sceglie giustamente il festeggiato per la propria festa, dice potete fare donazioni in queste 2, 3, 4, 5... 5, esatto, per cui se il festeggiato è, diciamo, accorto, sceglie degli enti che soddisfano un po' tutti i gusti. C'è chi è sensibile, per esempio, ad aiutare gli animali, chi ai bambini, chi è alla ricerca scientifica, chi invece preferisce l'arte o piuttosto le adozioni a distanza. Si mettono un po' tutti i gusti in modo che gli invitati possano scegliere ciò che loro più gradiscono, ovviamente preselezionando gli, essendo il festeggiato a preselezionare gli enti. Così uno capisce anche che tipo di amici ha, perché se ha tutti gli amici che danno i soldi solo agli animali e nessuno ai bambini, si fa anche delle domande, secondo me, no? Esatto, anche, esatto, infatti per questo. Quindi questa è l'idea. E cosa fa Aiutonete? Diciamo, facilita il lavoro sia al festeggiato sia al, a chi vuole fare la donazione. Questo punto, perché questa cosa si poteva fare anche senza il portale Aiutonete, però in effetti devi andarti a cercare l'associazione, di trovare il modo di coordinare tutti gli invitati, eccetera. E poi eccetera. Va a finire che uno non lo fa, va, perché se non c'è un sistema complicato per cui uno poi può dire t'ho fatto la donazione su Aiutonete come mi hai detto tu, va a finire che non lo fa ed è più facile comprare dei cioccolatini. Esatto. Quindi, esatto, quindi mi sembra una buona idea. E invece come le liste nozze? Nelle liste nozze gli sposi sanno esattamente chi ha regalato che cosa ed è esattamente tutto quello che desiderano i festeggiati. Quindi, ah, quindi si vede anche quanto hai messo di donazione? Lo vede solamente il festeggiato, come gli sposi. Gli sposi lo vedono. Certo, certo. Vedono quanti... chi ha regalato bicchieri o piatti, quanti bicchieri e quanti piatti hanno regalato. Vedono chi è stato generoso e chi ha invece avuto la manina corta, questo si sa, è sempre stato così, d'altra parte così. Comunque, anche con i regali è così, d'altra parte, perché uno quando arriva bene o male un'idea te la fai, se arrivano sempre i cioccolatini oppure arrivano Swarovski sono cose diverse. Come sta andando, Alessandra, in termini di generosità? Cioè sta muovendo la piattaforma? Allora, che dati avete? Sta muovendosi, sì, è partita da un paio di mesi, quindi non siamo ancora, non abbiamo ancora preso il volo. Ecco, allora forza, cari ascoltatori, muovetevi, datevi da fare, andate, fatelo questo gesto di generosità, perché è una cosa bella, tra l'altro. Ma soprattutto se appunto nell'occasione dei prossimi 40 anni, 50 anni e 60 anni, quello è l'anniversario di matrimonio, i 25 anni e 50 tutto, anni, va bene, tutto. Prendiamo tutto. È la situazione giusta. Ci rivolgiamo di meno ai giovani sposi, perché capiamo che i giovani sposi hanno bisogno di mettere su casa, quindi i regali per loro sono utili e preziosi. Ma i giovani sposi di oggi hanno di solito 38 anni e già convivevano, perché prima non esiste la possibilità, con i pochi lavori che ci sono, di sposarsi molto prima. Beh, i giovani sposi però possono fare una cosa, possono destinare per esempio il regalo che si fa normalmente associato alla bomboniera, il pensierino, anziché fare quello, fare una donazione esatto, e poi lasciare esatto, un piccolo... È una cosa bellissima, infatti, evitare le bomboniere, fare questo tipo di cose, o anche le bomboniere solidali. Ma questo è un altro discorso. Invece diciamo che Aiutonete si rivolge molto a coloro che organizzano la grande festa, perché è proprio lì che ci sono ospiti più generosi, che sono disponibili a fare dei bei regali, e che invece di fare un regalo da 100 euro, che poi invece trova lo spazio che trova, 100 euro di donazione a un ente possono cambiare la vita di una persona. Certo. Mi diceva, non mi ricordo quale ente, che con 50 euro al mese si fa vivere e mangiare una persona per un mese. Assolutamente. Per cui, basta poco, noi, poco per noi e molto per tanti altri. Alessandra Repini, esatto. Grazie mille per, grazie mille per l'iniziativa, per averci grazie raccontato come funziona Aiutonete. E quindi, cari ascoltatori, se avete una festa imminente, appunto i 40 anni, i 50 anni, ma anche qualcos'altro da festeggiare, dove ci sono dei regali da fare, è il momento per fare questo passaggio, per scegliere di fare un regalo, di essere generosi, di fare una donazione. 800 24 00 24, siamo quasi in chiusura. Tra l'altro, l'altro, questa è l'ultima puntata, credo di poter dire, di domenica. Di domenica, di questa stagione, ora. Sì, perché... Detto bene, ho sbagliato. No, è giusto. Prossima, però i prossimi tre weekend ci saremo il sabato, ci quindi il sabato. Ci siamo comunque. Non è l'ultima puntata, l'ultima sarà il 15 luglio. Mi dicono che domenica prossima ci siamo. Allora ho sbagliato, lo sapevo. Ma io non credo, sai. Adesso c'è un attimo di incertezza. Vabbè, c'è un attimo di incertezza. Abbiamo ma... bevuto due spritz a testa, quindi siamo tutti un po' confusi. Ma insomma, vabbè, non importa. Anna da Milano per chiudere. Benvenuta in un minuto, anche meno, per indovinare il personaggio. Vai, chi è? Buondì, Anna. Sono contenta di sentirvi. Buongiorno. Mi sembra molto facile. Mi sembra molto facile. Io sono poco attenta ai personaggi famosi. E più attenta agli eventi naturali, credo che la risposta sia il solstizio d'estate, che è il giorno più lungo e brillante dell'anno. Sì. Esatto, è una data precisa, più di così non sapevamo come aiutarvi, ma siamo felicissimi. Ma siamo felici di ricordare questo 21 giorno che purtroppo è già passato ed è stato bello, perché è il giorno più lungo, cioè, non so, 15 ore di sole, a me piace moltissimo. Meraviglioso, Anna, grazie, complimenti, ti porti a casa un libro, sarai contattata dal nostro centralino. Noi ci fermiamo qua, ci risentiamo sabato prossimo in diretta naturalmente. Un ringraziamento come sempre ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Lorenzo Nespoli, Paolo Colleoni oggi in regia. Ciao a tutti da Alessio Maurizi. E ciao a tutti da Carlo Gabardini. E chi ci ascolta in podcast.